Un giudice stabilisce che l'uso eccessivo del cellulare può provocare un tumore. Chi studia la materia dice che si sbaglia. In un paese nel quale l'uso dello strumento è particolarmente intenso, si apre quindi uno strano dibattito su una decisione di un magistrato non confortata da studi scientifici. In Vaticano la convivenza tra i due papi viene messa alla prova dalle parole di Ratzinger sul celibato dei preti. L'emerito ritira la firma dal libro con il cardinal Sarà, ma i testi restano quello che sono e bastano a incrementare la tensione su una prossima decisione di Bergoglio sul tema. In Libia si attende con una certa trepidazione di capire quali saranno le mosse di Haftar. Vuole marciare su Tripoli? O la mancata firma sull'accordo per il cessate il fuoco è solo una fase di temporeggiamento? Anche l'Italia sta alla finestra e attende, mentre la politica si concentra sul taglio delle tasse sul lavoro, sulle alleanze tra PD e 5 Stelle, ancora sulla revoca della concessione ad Autostrade. Ah, e a proposito di strade, anche oggi a Roma non circolano le auto diesel fino all'Euro 6, quindi praticamente tutte, e se va avanti così non ritorneranno sulle strade prima di lunedì. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Le 6:30 minuti e 45 secondi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di questo mercoledì 15 gennaio, con Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Ci siamo dunque e vi aspetto come sempre al 349-238-6666. Gli sms, i messaggi su WhatsApp, in particolare e con particolare piacere quelli audio. La vostra voce, fatecela sentire, per quanto assonnata. Magari non lo è per nulla, eh. Siamo in diretta sulla pagina Facebook, siamo su Instagram, su Twitter come sempre, abbiamo l'email 24mattino@radio24.it. Iniziamo dunque. Intanto vi dico che oggi alle 8:20 con Maria Latella parleremo di pensioni, parleremo tanto di quello che sta avvenendo in Francia sulla riforma delle pensioni e poi avremo ospite il presidente dell'INPS Pasquale Tridico. Se avete domande potete già partire. Parleremo di tutto, reddito di cittadinanza, quota 100, le possibili riforme delle pensioni. Oh, e visto che siamo qua, ma fatemi iniziare da un caso di cronaca, un caso di cronaca. Questa è una cosa che ci fa imbestialire un po' a tutti noi onesti naturalmente, magari invece chi non è onesto se la ride tutto felice. I falsi invalidi, ne scrive anche Massimo Gramellini stamattina sul Corriere della Sera. A Palermo ci sono paralitici che ballano e ciechi che leggono, ma c'è anche un marito abbandonato che in un soprassalto di tigna per vendicarsi dell'ex moglie falsa invalida decide di denunciare la truffa. È l'inizio del pezzo del caffè di Massimo Gramellini di stamattina. Abbiamo qualche intercettazione, no, Carmelo Lauricella? Sentiamo qualcosa, va? Matica, non c'ero tutto per il mio paese. Purtroppo sono una persona, sono come una prostituta, per avere la mia è una brutta nomea. Chissà è kid che fa pigliare 20 però vero, purtroppo per virtù. Come funzionava? Funzionava che c'erano queste certificazioni di falsa invalidità, in cambio il falso invalido dava 12 mesi di pensione di invalidità alla persona che la certificava. Mamma mia, ragazzi. Va bene. Parleremo magari anche un accenno a questo e ai controlli su tutte queste questioni con Pasquale Tridico più avanti. C'è in primo piano tutta la questione libica ancora, il ruolo dell'Italia, cosa facciamo, ci mandiamo i soldati, non ci mandiamo i soldati, dipende se li vogliono o non li vogliono, così Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio. L'Italia, ovviamente, se si tratta di dare ogni forma di contributo utile per la pacificazione, in Libia è assolutamente disponibile, però direi che in questo momento non ha senso ragionare di dislocamento. Bisogna prima ritrovarsi a Berlino, creare le premesse. Se ci saranno queste premesse, con tutte le condizioni ovviamente di garanzia, in un contesto chiaro e certo, l'Italia valuterà la disponibilità. L'abbiamo fatto in altri contesti. Diciamo che, lo dico adesso astrattamente, ripeto perché non abbiamo ancora creato le premesse concrete, potrà fare questa valutazione anche per il contesto libico, che per noi è assolutamente strategico. Vabbè, insomma, 45 secondi per dire si potrebbe anche fare con il contesto giusto. Francesca Pace, La Stampa, ciao, come stai? Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, come lo vedi questo dossier libico? La questione mi pare che si sia discretamente complicata. Vedo che sui giornali ci sono varie interpretazioni su questa mancata firma di Haftar. Insomma, alcuni pensano che debba andare all'attacco, altri invece dicono vabbè, deve consultare i suoi sponsor innanzitutto, a partire dall'Egitto, che è un po' rimasto fuori dalla partita e per questo è discretamente innervosito. E poi le tribù. Che dici? Guarda, la storia mi sembra di capire che la storia che lui debba consultare delle tribù, che sia quindi ripartito in fretta e furia per andare a consultare le tribù, sia quella un pochino meno, diciamo, meno creduta. E anche perché il generale Haftar finora non ha dato prova di grandi virtù consultative, diciamo. quindi questa sembra abbastanza credibile, tant'è vero che sono spiazzati anche i suoi, tu parlavi di sponsor, i suoi sponsor principali, i russi, certamente c'è l'Egitto, ma sono molto spiazzati. Sì. Quindi lui ha detto che deve consultare le tribù e comunque ha detto che sarà a Berlino domenica. Sì. E anche questo è tutto del resto, Francesca, perdonami, la mancata firma è avvenuta in faccia a quello che appunto è il suo principale sponsor, ossia esatto. Putin. Politicamente è una mossa tostissima e forse esatto. Può anche far innervosire Mosca questa cosa. Sì, che c'era stato, che ci fosse stato un lieve raffreddamento tra Haftar e il suo primo sponsor russo, era già avvenuto, si era già colto nelle settimane scorse quando Putin ha cominciato a dialogare con Erdogan. Quando si è cominciato a ventilare appunto questa possibilità, che tanto poco è piaciuta agli italiani o agli europei, di una spartizione della Libia tra zone di influenza tra Russia e Turchia, che quindi avrebbe significato anche una spartizione di poteri tra sì. Haftar e quindi la Cirenaica e la Tripolitania. Già da qualche settimana infatti si dice che i suoi sostenitori sul terreno russi, ossia i contractors della Wagner, quindi proprio sia le prime linee che le consulenze, si erano un pochino ritirati, si erano fatti indietro, ma questo non ha fatto sì che Haftar riducesse l'offensiva, anzi ha continuato ad avanzare e continua a fare guerra alla periferia di Tripoli. Francesca, riassumo, la situazione è oggettivamente ancora poco leggibile, almeno per quanto riguarda le mosse di Haftar. Insomma, non siamo in grado di dire, cioè non è facile dire che cosa possa fare anche in questa situazione, così come non è facile dire che cosa potrà fare l'Italia. Lo stesso Conte lo dice, se il contesto tutto sommato, forse potremmo andare. L'impressione è che lui vuole tenere il comando delle forze armate, Ministero della Difesa, e dall'altra parte Tripoli non si fida ad avere un Haftar così armato insieme alla nuova Libia. Mi sembra perfettamente comprensibile, peraltro. Allora, le questioni italiane tengono conto ovviamente di questo dibattito. Finalmente un po' si va sulle cose concrete, cioè si parla anche di tutto questo temone delle alleanza strategica di lungo termine tra PD e Movimento 5 Stelle, e vabbè, insomma, i due giorni del conclave del Partito Democratico si concludono con qualche perplessità su tutto questo. E però si parla anche di cose concrete, ossia il taglio del cuneo fiscale. Cosa vuol dire? Il taglio delle tasse sul lavoro, che come sapete deve partire a metà anno e bisogna definire come va fatto. C'è stata finalmente una schiarita all'interno del ministero tra la vice ministra Laura Castelli e il ministro Gualtieri. Allora, parliamoci chiaro, non c'è ancora nulla di veramente definito. Ci sarà un incontro con i sindacati, i quali dicono, a partire dalla Furlan, la leader della CISL, va maneggiato con cura. Va maneggiato il tema con molta cura. Chi fa facilmente ipotesi di passare dal bonus alle detrazioni senza fare i calcoli esatti rispetto alle varie fasce di reddito dei lavoratori rischia di creare pasticce. Noi non abbiamo bisogno di pasticce. Maurizio Landini della CGIL. Abbiamo di fronte un anno che può apparire difficile, ma che in realtà può essere anche un anno di vero cambiamento del nostro Paese. E il messaggio che noi mandiamo al Governo è che se vuol cambiare questo Paese non può che farlo insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, insieme alle organizzazioni sindacali. E noi siamo disponibili, ma non siamo disponibili a fare sconti, anche perché non abbiamo più nulla da scambiare. È una fase in cui abbiamo bisogno, nel ricostruire la fiducia di questo Paese, di far vivere a chi lavora e a chi per vivere ha bisogno di lavorare, di avere un futuro, a partire dai giovani. Per gli appassionati, come dire, i feticisti della politica, come si diceva, c'è anche tutto il tema delle alleanze. Alleanza, PD, Movimento 5 Stelle, su questo sono una bella cosa. Facciamo sentire solamente Luigi Di Maio, che dice che è contrario. Ormai mi definisco un po' vecchia scuola nel movimento, cioè il Movimento 5 Stelle. Perché c'è una parte invece del movimento che vorrebbe posizionarlo comunque nel centro-sinistra. Diciamo che c'è una parte romana, non inteso come Movimento di Roma, ma diciamo in Parlamento, che crede che si debba creare qualcosa insieme al Partito Democratico di Duraturo. Ma la stragrande maggioranza del movimento, e io personalmente, penso che il movimento ha ragione di esistere quando rappresenta un'alternativa. Francesca, sei tra questi feticisti, sì. Tu? Cioè, tra... No, ma io la domanda mi verrebbe da chiedere, dice una parte romana, invece mi verrebbe da chiedere quanti movimenti ci sono, perché poi lui parla della parte romana del Movimento 5 Stelle, che sarebbe propensa ad andare verso un'alleanza duratura con il PD, mentre c'è lo zoccolo duro, la vecchia guardia, come dice lui, che resiste ad essere né di destra né di sinistra al centro. Però in realtà la scissione che c'è stata già con l'uscita di Paragone, che ha messo in luce, diciamo, l'anima tra virgolette più di destra, l'uscita di Fioramonti dall'altra parte ha messo in luce l'anima più di sinistra, Di Maio resta in mezzo, e poi ci sono sempre, diciamo, i presunti, stando alle ricostruzioni, i dissidi tra Conte e Di Maio, quindi diciamo, quanti sono questi movimenti 5 Stelle, insomma. Sì, in effetti tema, questo è uno dei temi e uno dei motivi per i quali, insomma, non è facile pensare quello che propone lo stesso Zingaretti, che ha proposto lo stesso Zingaretti al PD, PD nel quale si sono alzate, sono sollevate qualche delle voci di perplessità, no, a partire dal sindaco di Bergamo Gori. Allora, sì, che vuole aprire le sardine a sua volta, quindi aprendo un altro fronte ancora. Sì, beh, ovviamente, insomma, il tentativo, l'abbiamo raccontato ampiamente, no? Il tentativo di Zingaretti in questo momento è chiaramente di coinvolgere questa piazza alla quale, appunto, presta il PD. Quando si muove la piazza, il PD presta, no, una grande attenzione, arrivando sempre, almeno a giudicarla così, è un po' brutalmente, mi perdonino gli elettori affezionati del PD, un po' in ritardo, sempre un pochino in ritardo. C'è tutta una questione che si riapre oggi con un'intervista a Graziano Del Rio sul quotidiano La Repubblica, che è quella dei decreti sicurezza e come cambiare questi decreti sicurezza, che è la cosa che viene rinfacciata facciata in questo momento al Partito Democratico. Insomma, gli viene detto: scusa, hai fatto l'alleanza col Movimento 5 Stelle per andare contro Salvini. Uno degli elementi principali per i quali sei andato contro Salvini erano esattamente i decreti di sicurezza, e adesso cosa fai? Come ti muovi? Del Rio dice: insomma, bisogna metterci mano. Ieri avete sentito anche Zanda ai nostri microfoni. Così la titolare, Lamorgese, il ministro Lamorgese, ieri era ospite. Vabbè, poi ve lo dico. Intanto sentiamola. Per esempio, ci saranno multe più basse per le ONG, conferma? Sì, sì. Quindi si torna a un massimo di 50.000 euro di multa? Adesso stiamo vedendo, ma sicuramente vorrei ritornare al testo originario, che era da 10.000 a 50.000. Sì. Ripristino dei permessi umanitari, c'è un ripristino? Allora, dei permessi su questo umanitari? Io penso che dobbiamo ampliare un po' la categoria dei permessi umanitari, perché per evitare poi quello che stava succedendo a dicembre, su cui poi siamo dovuti intervenire, tutti coloro che non avevano permessi umanitari in base al decreto poi venivano buttati fuori per strada, e quindi ci ritrovavamo nelle piazze, nelle strade, nelle nostre stazioni. Insomma, Lamorgese dice tutto questo va rivisto. Tra l'altro, tra un attimo parleremo di immigrazione, perché saremo in diretta con la nostra Valentina Furlanetto, che è inviata a Lesbo in quella che ci pare essere una vergogna europea, ossia questo campo nel quale risiedono migliaia di migranti in arrivo in Grecia, perché gli arrivi sono rallentati verso l'Italia, però verso la Grecia sono proseguiti e insomma sono fermi là su un'isola. Il traffico. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Mattino. Ma chi è che ha sonnato? Qui bisogna stare svegli, con questa nebbia in Valpadana non si vede neanche un piffero, neanche 10 metri, no, 10 metri no, però qui bisogna stare svegli, ragazzi, bisogna stare svegli per portare in giro la roba da mangiare, altrimenti la gente dimagrisce tutta. Buongiorno a tutti. Ma si può parlare anche di sport? Ma quanto è forte Lukaku? Sì, confermo, è forte, insomma, l'abbiamo visto ieri, una doppietta, quasi tre gol, se non fosse intervenuto il VAR. Parliamo di Coppa Italia. Dunque, la questione immigrazione, gli sbarchi, ne ha parlato ieri anche sempre ospite Lilli Gruber, la ministra Lamorgese. Gli sbarchi a settembre dalla Tunisia sono aumentati, dice sì, è vero, effettivamente, ma la questione era una questione di politica interna tunisina, sentiamo. Gli sbarchi effettivamente nel mese di settembre soprattutto sono aumentati. Ma perché? Perché la maggior parte venivano dalla Tunisia, dove non c'era un governo, quindi c'era una situazione di instabilità, e dalla Libia veniva quasi niente, cioè noi di immigrati dalla Libia non ne abbiamo visti per più mesi, perché i nostri arrivi erano dalla Tunisia. Così dunque la ministra Lamorgese. Ci spostiamo, come si diceva, a Lesbo, in Grecia, dove si trova la nostra inviata Valentina Furlanetto, che è stata in visita in questo luogo che, come dicevamo, e lo voglio chiarire all'ascoltatore che insomma adesso un po' si nervosisce, dice in Grecia è una vergogna europea, invece quando sbarcavano in Italia era colpa nostra, non dell'Europa. Non stiamo parlando delle questioni degli sbarchi, stiamo parlando della condizione nella quale vivono i migranti a Lesbo. Che sia una vergogna europea ci pare abbastanza chiaro. Valentina, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che situazione hai trovato? Allora, ieri ho passato tutta la giornata al campo di Moria, che è il campo più grande d'Europa, campo di rifugiati, di richiedenti asilo, dove arrivano costantemente ogni giorno le persone che sbarcano a Lesbo. Sono circa 200-300 persone che sbarcano ogni giorno. L'isola è una situazione di pressione molto forte, perché voi immaginate un territorio di 1500 km quadrati dove c'è la presenza di 21.000 persone, migranti, per lo più afghani, 70% sono afghani, 10% sono siriani. La situazione è di grande degrado, perché? Perché non c'è l'acqua, non c'è l'elettricità, c'è un bagno ogni 100 persone, una doccia ogni 230, come potete capire 21.000 persone in un campo che ne potrebbe tenere ufficialmente 3.000, quindi chiaramente sono sorte moltissime tende, container a fianco alle container ufficiali, c'è una giungla chiamata proprio jungle al di sopra di questa collina dove c'è il campo di Moria, insomma è una distesa di esseri umani, di umanità la più varia, con la situazione anche di violenza che ci può essere in queste situazioni. Pensate che di 21.000 persone la metà circa sono bambini, di cui un'altra metà sono bambini non accompagnati. Ho visto anche un bambino di 7 anni che non aveva la famiglia, che non ha la famiglia e che quindi viveva per strada, l'hanno trovato i volontari a dormire proprio per strada e ovviamente lo hanno preso, hanno cercato di metterlo al riparo da tutte le possibili violenze che possono avvenire per i minori che vivono a Moria in questo momento. Valentina, lungo che percorso arrivano questi migranti? Beh, come dicevamo sono per lo più afghani, ma molti arrivano dall'Iran, perché sono rifugiati afghani in Iran, a Zahra per lo più, che sono scappati dall'Afghanistan per questi 18 anni di guerra che continua ad esserci in effetti in Afghanistan, sono andati a rifugiarsi in Iran, ma in Iran vengono discriminati, non hanno i diritti, non possono andare a scuola i bambini, quindi scappano nuovamente e si dirigono verso la Turchia e poi prendono queste imbarcazioni e vanno verso le isole. Mi dicevano ieri fonti locali che di solito gli smugglers, i trafficanti, hanno delle rotte ben precise, quindi tu trovi a Samos, all'isola di Samos, tutti africani, anche libici, insomma un'umanità più vicina ai migranti che arrivano anche in Italia, no? Della rotta sì. centrale, mentre ad esempio a Lesbo sono quasi tutti afghani, iraniani e siriani. Perché i trafficanti si dividono le rotte. Da qui, da Lesbo, si vede chiaramente la costa, è molto vicina, è per questo che quest'isola subisce questa forte pressione migratoria, però ce ne sono almeno quattro di isole greche nell'Egeo che proprio fronteggiano la costa turca che sono sottoposte a queste rotte. Allora, tu hai raccolto delle voci ovviamente, la prima che sentiamo credo è di Lucio Melandri, capo progetto di UNICEF in Grecia, ascoltiamolo. Negli ultimi mesi purtroppo abbiamo visto anche un incremento nell'arrivo dei bambini non accompagnati, e parliamo realmente di bambini, cioè oggi qui dove ci troviamo insieme abbiamo dei bambini dell'età di 7-8 anni che viaggiano da soli. Abbiamo qui anche ragazze che sono state violentate, hanno partorito e hanno altri bambini, e molti di loro cercano semplicemente di sopravvivere, di accedere a un po' di cash, ma molto spesso questo si può tramutare in azioni di traffico, ossia vengono sfruttati nelle situazioni più orribili, e c'è evidenza, come ci insegnano anche le istituzioni di polizia europea oggi, che si va dalla prostituzione, si va dal traffico di organi e a molto peggio. Questo è il quadro terrificante che traccia Lucio Melandri, ma sentiamo l'altra voce che la nostra Valentina Furlanetto ha raccolto, ne sentiamo un accenno, è in inglese e poi Valentina ti chiederò di chiarire di chi è questa voce, sentiamo. When we were deported to Afghanistan, it was so strange. È una voce giovane questa, Valentina, di chi è? Allora, questa è la voce di Fatima, una ragazza di 16 anni che ho incontrato insieme alla sua famiglia ieri. Devo dire, Simone, che certe interviste lasciano poco indifferenti, più di altre, insomma. Fatima aveva le lacrime agli occhi quando parlava. Qui dice: mi hanno deportato in Afghanistan dalla Norvegia. Perché? Perché questa famiglia è andata in Norvegia dall'Afghanistan fuggendo alle violenze in Afghanistan parecchi anni fa, e poi allora Fatima aveva 5 anni, lei ha studiato in Norvegia, è cresciuta in Norvegia, ha fatto le scuole in Norvegia, infatti dice: mi mancano le mie amiche, mi manca la Norvegia, il mio paese. E dopo qualche anno in Norvegia hanno respinto la richiesta d'asilo, hanno fatto ricorso, hanno respinto anche il ricorso, insomma hanno considerato l'Afghanistan un paese sicuro e li hanno riportati in Afghanistan. Questa famiglia non si è persa d'animo, sono andati prima in Iran, sono in 5, madre, sì, padre e 3 figli, sono andati prima in Iran e poi sono nuovamente scappati e sono arrivati qui a Lesbo, dove sono dall'agosto scorso. Dall'agosto. E dice: vorrei studiare. E probabilmente, sì, e probabilmente ovviamente vuole tornare in Norvegia, dove in sostanza è cresciuta. Io ti ringrazio Valentina perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Grazie Valentina Furlanetto da Lesbo, Francesca Paci e La Stampa. Ci sentiamo alla prossima, ci fermiamo GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.